9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon martedì, 1° maggio, festa del lavoro, buona festa del lavoro a tutti, la festa del lavoro che non c'è, perché lo Stato nel frattempo frega anche te. Questo sarà più o meno il tema da noi svolto, minoritariamente come sempre nella mia visione un po' eterodossa di quello che è successo, e ne discuteremo con Aldo Bonomi, che è una delle figure che più ci ha aiutato negli ultimi 2-3 decenni a capire il capitalismo molecolare italiano, cioè esattamente quel tessuto di piccola impresa radicata con micro unità produttive, artigiani, commercianti, partite IVA, che però ha tentato di rappresentare con successo, secondo me, la spina dorsale della tenuta del nostro paese. È vero che c'è bisogno di medie imprese, di grandi imprese, c'è bisogno di filiere che esportano, di fare più valore aggiunto e più patrimonializzazione, ma oggi le pretese esose dello Stato tossicodipendente mettono in crisi, insieme al sistema bancario, al fatto che tutti sono diventati cattivi pagatori, esattamente questa piccola impresa. E quella moria di cui ci stiamo occupando con la campagna Disperati Mai, @radio24.it, di cui leggeremo anche oggi lettere, ne parleremo con Bonomi e con altri che sul territorio si stanno attivando di fronte alla disperazione di un'impresa che muore. E partiremo, prima di dare la linea ai colleghi del Giornale Radio, da un giudizio sul Consiglio dei Ministri di ieri, un giudizio perché va dato rispetto a quello che è successo sulla spending review. Giornale Radio. 9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. I'll never look into your eyes again. Buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, buon 1° maggio, buon festa del lavoro a tutti, e la declinazione in questa puntata in diretta di Oscar Giannino qui da Radio 24 è buona festa del lavoro che non c'è, perché purtroppo quest'anno più che mai va detto del lavoro che non c'è, perché lo Stato frega anche te. Questo è un punto di vista volutamente tagliente, è una puntata che va in coerenza a questa iniziativa straordinaria che abbiamo assunto da 12 giorni a questa parte, aprendo un ascolto, dando un indirizzo radio a 24, l'indirizzo è disperatimai@radio24.it, di fronte all'impennata dei suicidi di piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, imprenditori di partite IVA che si suicidano, come si tolgono la vita anche lavoratori dipendenti disperati, l'ultimo un portiere ieri a Napoli che si è aggiunto alla lista del dolore, e di fronte al fatto che si spezzava questa soglia che aveva sempre tenuto in Italia malgrado i 4 anni di crisi alle nostre spalle, per cui i suicidi per ragioni economiche c'erano ed erano in crescita da 250 a oltre 300 negli anni alle nostre spalle, però si è rotta in questi ultimi mesi, dall'inizio dell'anno, questa soglia psicologica, il ritmo ha cominciato a infittirsi, il numero di piccoli imprenditori ha cominciato ad aumentare per 3 fenomeni, le aumentate pretese di uno Stato tossicodipendente, alcuni dicono che io debba dire tassicodipendente, che fa l'80% del riallineamento dei suoi 80 miliardi di miglior saldo pubblico, per cui bisogna essere grati certo al professor Monti, ma li fa con più tasse, e questo è un record in Italia, e di questo non bisogna essere grati a Monti, perché è una cosa completamente sbagliata. Poi c'è il secondo fenomeno, la torsione del sistema bancario, che ha redditività zero, deve ripatrimonializzarsi e ha 5 mesi alle spalle di depositi in calo. Terzo fenomeno, tutti sono diventati cattivi pagatori, ma di sicuro il peggiore di tutti è lo Stato che viene meno alla regola per cui ci chiede di pagare con assoluta certezza quando dice lui, altrimenti scattano le sanzioni, ma lui non paga, lui non compensa i creditiva. Anzi, ieri il professor Monti, ma ci arrivo tra poco su questo, ha detto una cosa che mi ha profondissimamente fatto riflettere, e ha detto una cosa veramente terribile, terribile, perché quando si è detto indignato perché qualcuno si scandalizzi chiedendo la compensazione di crediti IVA rispetto al debito fiscale, si è detto indignato perché questo attenterebbe allo Stato, io credo che le parole che abbia usato legittimerebbero reazioni da mancanza di rispetto. Credo che sia una mancanza di rispetto profonda verso chi da anni vanta crediti IVA e lo Stato prende ma non ti dà, e credo che sia intollerabile sentirlo dire da un Presidente del Consiglio di un governo che ha proposto in Parlamento, questa è la sua proposta, signor Presidente, di attingere per l'inizio della compensazione di quel crediti IVA che anche da più di 3 anni lo Stato non riconosce, allo stesso fondo da quale lo stesso governo, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio, aveva proposto invece di iniziare il pagamento degli 100 miliardi di debiti commerciali che non paga lo Stato alle imprese. Allora, quando si è responsabili solo per la parte relativa alle competenze di questi ultimi mesi di giochi delle tre carte di questo tipo, prima di dirsi indignati perché c'è chi crede, chi chiede la compensazione dei crediti IVA, beh, bisognerebbe andarci piano. Allora, oggi parleremo ancora una volta delle vostre lettere, ne leggerò qualcuna e ne parleremo con protagonisti delle iniziative che oggi ci sono sul territorio, delle reti di ascolto che si sono aperte nella totale insensibilità del governo, tanto per cambiare. Sottolineo che noi abbiamo avuto fino a questo momento una sola regione, la regione Veneto, che si è fatta viva con Radio 24 per la sua iniziativa sul fondo straordinario da realizzare attraverso il fondo Confidi per gli imprenditori disperati. Nessun'altra regione, nessun membro del governo, nessuna istituzione centrale dello Stato, un solo parlamentare si è fatto vivo fino a questo momento. Questa è l'attenzione, come si vede, altissima, che le istituzioni e la politica danno al tema della tenuta che manca oramai del sistema delle imprese italiane. Io mi auguro solo che il concerto del 1° maggio di oggi, e lo dico con un tono di assoluta sostegno a iniziative come questa che sono tradizionali, annuali, ma non devono perdere il significato di parlare al cuore dell'Italia del lavoro dipendente e del lavoro dell'impresa, che insieme devono affrontare questi anni terribili. Io mi auguro che anche nel concertone oggi del 1° maggio ci sia attenzione al fenomeno di chi si leva la vita e del fatto che tutti ci dobbiamo impegnare per darci una mano alla difesa proprio di quel capitalismo molecolare che, al di là della grande impresa in filiera che esporta, che fa risultati, che grazie al cielo ha un valore maggiore oggi come export di quanto fosse nel pre-crisi, malgrado 22 punti di produzione industriale in meno, ciò malgrado la tenuta della piccola impresa, di artigiani, commercianti, partite IVA, dell'autoimprenditorialità che poi si organizza tenacemente per resistere a tutte le condizioni di una pubblica amministrazione ostile, di una fiscalità di decine di punti superiore a quella dei nostri paesi concorrenti. Ecco, la difesa di tutto questo ci deve vedere uniti, e ne parleremo tra pochissimo con uno di coloro che più ci ha aiutato nel tempo a capire questo fenomeno, a comprenderne l'intreccio storico e culturale con l'evoluzione economica del nostro paese, e sentiremo come la pensa lui rispetto a questi fenomeni di mancata tenuta che diventano sempre più evidenti. Ma prima lasciatemi dire un'ultima cosa, ed è un giudizio, me ne assumo la responsabilità, su il Consiglio dei Ministri di ieri e quello a cui abbiamo visto in materia di spending review. Sapete come la penso io? Avrei voluto dal primo giorno una spending review di 5-6 punti di PIL in 3 anni da dare immediatamente ad a minore pressione fiscale, come è avvenuto in molti altri grandi paesi. Non è vero che bisogna studiare dove farla, lo sappiamo perfettamente. Non è vero che non ci sono esempi di altri paesi che hanno fatto questo, perché lo hanno fatto. Il debito pubblico si affronta con le cessioni degli attivi patrimoniali, non con gli avanzi primari fiscali. Vi leggo solo questo, guardate. Articolo 32, legge 30 marzo, poi vi dico di che anno, numero 119. È istituita presso il Ministero del Tesoro una commissione tecnica per la spesa pubblica. La commissione opera sulla base delle direttive del CIPE con il compito di compiere studi, effettuare analisi sui metodi di impostazione del bilancio pluriennale programmatico e sulla struttura della spesa per programmi e progetti, trasmettere al Parlamento ogni anno una relazione sui costi e sugli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti e da leggi di spesa, effettuare l'analisi del funzionamento di organi ed enti pubblici e della speditezza delle relative procedure di spesa, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, è il provvedimento assunto ieri? No, questa è la legge istitutiva 30 marzo 1981, numero 119, della Commissione per la Spending Review, la prima Commissione per la Spending Review. Capite? Era il marzo 1981, cioè il governo in carica era quello di Forlani, capite? Il pentapartito, eh? Dopodiché, dopo pochi mesi, arrivò Spadolini, il non democristiano. Ecco, a marzo 81 era ministro del tesoro Nino Andreatta. Sapete chi fu messo a fare la commissione Spending Review? Il professor Piero Giarda, lo stesso che ieri ha proposto: a distanza dall'81 al 2012, fatevi il conto, sono passati 31 anni, la stessa persona. Ed è ancora una volta siamo al fatto che il governo di tecnici ha chiamato un tecnico esterno, ottantenne, che io conosco da decenni, una persona integerrima, di straordinaria qualità, tagliatore in aziende decotte, prima in Montedison e poi nella Parmalat, che è stato il simbolo della depredazione, del peggio dell'imprenditoria italiana, i tanzi che hanno levato onore all'idea stessa di fare impresa. Sto parlando di Enrico Bondi. E il governo Monti, dopo 5 mesi, il governo dei tecnici chiama un super tecnico che di bilancio pubblico non ne so niente, ma è integerrimo, per far da scaricabarile, per non assumere decisioni e per far scrivere ai giornali oggi, troppo generosi, che naturalmente il governo impugna la scure. Dove impugna la scure a 31 anni di distanza dalla prima commissione di spending review affidata a Piero Giarda? Dov'è la scure? È la dilazione. E di più, chiama anche tecnici esterni, chiama il professor Giavazzi e il professor Giuliano Amato, per dare consiglio su come tagliare il finanziamento ai partiti. Ben vengano, speriamo. Il professor Giavazzi, perché criticava sul Corriere, e allora gli affida il compito di dirci come tagliare le deduzioni e detrazioni, gli aiuti che vanno alle imprese e i finanziamenti a fondo perduto alle imprese. Ben vengano, me lo avete sempre sentito dire. Amici comuni, ieri sera hanno sentito Giavazzi abbastanza incredulo che da esterno si facesse coinvolgere in una cosa simile, e lui ci ha detto: che volete da me? Mi hanno chiesto un paper sulle cose che ho scritto 1000 volte, io gli ho detto: datemi i dati però, perché il meccanismo attraverso il quale un governo si stizzisce, come ha fatto ieri Monti, dicendo: sono indignato che si chieda la parificazione di crediti IVA da parte delle imprese. È indignato, ma dovrebbe indignarsi del fatto che lo Stato non paga, e lui è in condizione di non pagare, perdoni, anche se la colpa non è sua, ma non deve indignarsi di chi solleva questo problema. Se poi non gli è piaciuta l'intervista di Tremonti, lo capisco, perché Tremonti è stato al governo più di 10 anni e dovrebbe misurare le parole. Ma detto tutto questo, non può dire che è indignato di questa faccenda, non può dire: adesso vedrete e sentirete, ma non c'è spazio per proposte di abbassamento delle imposte. Gli altri paesi dimostrano che questo spazio c'è, basta prendere le decisioni, non assumere una nuova commissione e chiamare un nuovo tecnico per farsi scudo del fatto di essere integerrimo come Enrico Bondi, quando non ne sa nulla di bilancio pubblico, e coinvolgere chi criticava dall'esterno e non ha neanche i dati, e dovrà chiedere i dati prima di scrivere qualunque cosa, come Giavazzi e come il professor Amato, su cui non voglio spendere una sola parola, perché come ovvio bisogna affondare il coltello nel finanziamento dei partiti, non risolverlo con le regalie di 5 milioni all'INPS come ha fatto la Margherita. Ma detto tutto questo, il punto di fondo è che ieri è sembrata una farsa. Nella nobile tradizione della commedia italiana, la farsa è, diciamo così, la piega più greve di comicità, quando, pur di non andare sul serio, si iniziano a mettere in caricatura gli aspetti più sacri. Ecco, quando si tratta di aspetti sacri, si tratta della tenuta di un paese in cui la spesa pubblica non è come nell'81, quando si fece la legge che vi ho letto prima. Nell'81 dovete sapere che la pressione fiscale italiana era il 31%, capito? Non il 45% di oggi, che poi è il 54% sull'Italia legale. Era il 31% e la spesa pubblica, capite, era al 42%, non al 51,1% dove oggi. Se dopo 31 anni chi è al governo, che non ha responsabilità per aver creato l'Italia che oggi si trova ad amministrare in termini emergenziali, non capisce che è finito il tempo delle nuove prese per il culo e bisogna invece decidere, avere il fegato di decidere invece che pensare al Quirinale e al futuro, ecco, allora vuol dire che la gravità di quello che avviene nel paese non ha orecchie abbastanza attente per essere ascoltate. Ho parlato troppo. Ora vi presento l'ospite, che è appunto questa persona che con noi il 1° maggio ci spiega meglio che cosa secondo lui sta avvenendo, anche attraverso le lettere che abbiamo raccolto nella nostra iniziativa, in quel cuore del capitalismo molecolare che tante volte ci ha descritto, aiutato a capire nella sua evoluzione. È il direttore dell'istituto di ricerca a Aster, scrive da tantissimo per il Sole 24 Ore, e il professor Aldo Bonomi, che io ringrazio e saluto per essere qui con noi oggi. Buongiorno. Buongiorno Giannino e buongiorno a voi. Non la voglio coinvolgere nel mio tono iniziale, che è acceso, ma è una parentesi chiusa. Allora, secondo lei la gravità di questi fenomeni in corso è un segno di discontinuità profonda o è semplicemente un'evoluzione nel tempo di una situazione che piano piano peggiora, ma che non è una vera e propria frattura di discontinuità? Vede Giannino, io sono molto d'accordo con il suo editto, con il suo sfogo, e per di più devo dire, mi sia permesso, complimenti a lei e a Barisoni, che siete stati, che è il direttore di Radio 24, che siete stati gli unici che avete dato voce alla disperazione di una componente sociale importante, di quella che io chiamo il capitalismo molecolare, o diciamo dell'humus del nostro tessuto manifatturiero. Complimenti alla vostra solitudine e al vostro urlo. Detto questo, che mi pare un modo giusto anche di celebrare il 1° maggio, perché ovviamente quelle morti che voi avete evocato, ma avete evocato dicendo disperati mai, c'è sempre una seconda chance, bisogna stare molto attenti. Ad esempio, io credo che bisogna che noi diciamo con chiarezza che questa, che rivolgere il conflitto verso di sé non è il modo di risolvere il problema, bisogna trovare il modo di indirizzare la nostra indignazione, la sua indignazione che ho sentito stamane, giustamente nella direzione giusta, e mi pare che lei la direzione giusta l'abbia indicata. Detto questo, io sono preoccupato non tanto e non solo di quei numeri della disperazione, sono preoccupato di una cifra che è stata pubblicata recentemente dagli studi dell'Union Camere, in cui si dice che quest'anno, nel primo trimestre di quest'anno, il numero della natalità e mortalità delle imprese per la prima volta segna l'indicatore a meno 26.000 imprese. Quindi incominciamo a dire che la cosa che ci dovrebbe preoccupare è che incominciamo a intaccare quel tessuto di economia diffusa, di impresa diffusa, di patrimonio storico e antropologico e di caratteristica del nostro capitalismo, sto parlando di questo, sta lentamente franando. Se, diciamo così, la cura che noi applichiamo per uscire e attraversare questa crisi è quella di intaccare, diciamo così, le nostre risorse competitive, che poi alla fin fine significa la voglia di intraprendere, la voglia di fare impresa, la voglia di muoversi in questa direzione, dico che siamo nella direzione sbagliata. Perché ovviamente quelle 26.000 imprese che hanno incominciato a chiudere i battenti iniziano a far scricchiolare l'interaiatura del nostro capitalismo. Non capire che ogni volta che chiude una piccola impresa, un tessuto artigiano, ovviamente fa meno rumore del dibattito, virgolette, aspro che c'è stato sull'articolo 18, ovviamente fa meno rumore e meno notizia dello spread, non c'è dubbio, ma il vero problema è che quella, virgolette, lento franare del tessuto dell'impresa diffusa mette a rischio il nostro bene competitivo. Cioè, io credo che dovremmo fare nel nostro paese una riflessione seria, e questo mi aspetterei dal governo, in cui si dica come, virgolette, ne usciamo da questa crisi e se ne usciremo ancora, e qui di nuovo guardo la Germania, ma non dal punto di vista dello spread, rimanendo ancora il secondo paese manifatturiero d'Europa. Questo è un punto. Lungi da me la difesa critica, Giannino, di quel tessuto, virgolette, di impresa diffusa. So benissimo che è un'impresa che ha un deficit competitivo dentro la transizione, dentro la crisi. Ma proprio di questo dobbiamo parlare. Sì. Proprio di questo dobbiamo parlare, perché se ha un deficit di capacità competitiva è lì che dobbiamo intervenire ed è lì che dobbiamo, virgolette, in primo luogo applicare quella banale azione di compensazione dei crediti dell'IVA avuta, ad esempio, no? È normale, e quindi anch'io sono indignato quanto lei della posizione di Monti, perché ovviamente la prima operazione da fare era in primo luogo dare un minimo di ossigeno a quel tessuto in difficoltà. E non lo dico perché in quel tessuto in difficoltà iniziano a venire avanti momenti di disperazione, morti sul lavoro da celebrare in questo primo maggio. Non lo dico in nome di questa drammaticità, lo dico in nome di una visione economica, lo dico in nome di una visione economica e lo dico appellandomi, visto e considerato che ognuno chiama a raccolta i suoi tecnici, io chiamo a raccolta due posizioni di due grandi vecchi espressi sul Corriere della Sera. In primo luogo Giuseppe De Rita, che nella sua lunga tradizione di attenzione ai soggetti dello sviluppo, io ho imparato molto da lui ovviamente, dice: guardate che non possiamo ripartire se non tenendo conto dei soggetti dello sviluppo. Se noi, virgolette, tagliamo i soggetti dello sviluppo, siamo un paese finito. Qui qualcuno mi deve dire in nome di quali soggetti stiamo attraversando la crisi. Stiamo attraversando la crisi in nome dei soggetti finanziari che l'hanno provocata? Beh, ragazzi, diciamocelo allora, io non sono d'accordo. La crisi si attraversa accompagnando i soggetti dello sviluppo. L'altro grande vecchio è il padrone della Luxottica, uso il termine padrone non a caso, del vecchio, che ha detto una cosa molto semplice: ovviamente se non si, virgolette, taglia quell'insano intreccio tra malato, tra imprese e finanza, la finanza e le assicurazioni generali che non fanno il loro lavoro di assicurazioni ma entrano dentro il circuito speculativo della grande crisi, siamo alla punta. E lo stesso del vecchio ha detto che il problema non era l'articolo 18 ma il problema è come muoversi nel capitalismo. Aggiungo, Giannino, nella riflessione, che è vero che siamo arrivati alla fine di un ciclo. Lungi da me difendere le posizioni in termini acritici dicendo che l'Italietta ce la farà, difendendo qui e subito il modello precedente senza portare correzioni da questo punto di vista. Ma se il nostro capitalismo, lo dico in maniera molto schematica, e guardate, siamo qui il primo maggio a discutere di capitalismo per il lavoro, io dico, se il nostro capitalismo è fatto da un po' di grandi gruppi, pochi grandi gruppi, faccio notare che quei grandi gruppi ce ne sono pochissimi, virgolette, che hanno mantenuto la loro, virgolette, funzione industriale o manifatturiera. Del vecchio citava ad esempio come un elemento di pentimento virtuoso il ritorno della Pirelli invece che agli investimenti nella privatizzazione, virgolette, del pacchetto Telecom, il ritorno vero a una manifattura competitiva, e sono d'accordo, e quindi ascriverei questo gruppo in uno dei gruppi industriali. Abbiamo un po' di gruppi industriali, ma quelli che sono ai vertici sono tutti soggetti del capitalismo delle reti. Le grandi banche sono capitalismo delle reti, l'Eni è capitalismo delle reti, l'Enel è capitalismo delle reti, la Finmeccanica o ciò che resta dell'industria di Stato è parte del capitalismo delle reti. Abbiamo un pezzo di capitalismo delle reti al vertice. Poi abbiamo quelle 4-5 mila medie imprese che sono l'ossatura del nostro capitalismo. Quello del quarto capitalismo di Mediobanca, per capirci. Il quarto capitalismo di Mediobanca, esatto. Anche qui però, attenzione, la transizione è iniziata. Cito solo, anzi qui, che siamo arrivati al passaggio imprenditoriale. Sono medie imprese che sono cresciute nell'humus del nostro capitalismo. Tenete presente che dietro quelle medie imprese ci sono, sempre dati Mediobanca, per il 70% reti imprenditoriali, filiere imprenditoriali che attingono risorse, merci, consulenza e produttività fuori dalle mura, in quel tessuto di capitalismo diffuso a cui facevamo riferimento prima. E quindi ovviamente è grazie a quelle filiere territoriali che la Ferrero compete, Luxottica compete, Benetton compete, Bombassei, la Brembo compete, ne cito solo quattro. Anche loro sono dentro, ad esempio, una transizione dell'eredità imprenditoriale. Hanno finito un ciclo dei fondatori e stanno incominciando a passare la mano alla seconda generazione, oppure a management, come nel caso di Luxottica, per competere dentro la globalizzazione. Poi abbiamo, Giannino, ed è quello di cui stiamo discutendo, 6 milioni di capitalisti molecolari. Dentro quei 6 milioni c'è di tutto. Si va alle famose mitiche partite IVA, dove ci sono partite IVA, virgolette, di un terziario riflessivo che incomincia lentamente a venire avanti, dove sono al lavoro soprattutto giovani che sono al lavoro nel tessuto della competitività, della creatività, della comunicazione. Quanti sono quelli che lavorano in questi tessuti? Certo, a volte con partite IVA mascherate, ma si muovono in questa direzione. Poi abbiamo a che fare con un tessuto di commercio che anche qui ha il problema del rapporto con la grande distribuzione. E poi abbiamo tutto il tessuto delle attività artigiane, delle piccole imprese, dei distretti produttivi, delle piattaforme produttive, dentro il quale ci sta il tessuto della manifattura. Ovviamente questo tessuto, e qui arrivo alla fine, è capire anche questi drammi, si divide fondamentalmente questo bacino di 6 milioni di piccoli e medi e piccoli imprenditori, artigiania, che è un tessuto rispetto a questo. Allora, la prima cosa da capire è che senza di loro non esisterebbero le nostre medie imprese, lo dicono anche i padroni delle medie imprese. Molto spesso dentro la crisi abbiamo assistito a leader di imprese che hanno cercato di abbassare la crisi finanziaria dei loro subfornitori, perché se falliscono i loro subfornitori il loro vantaggio competitivo viene meno, quell'intreccio profondo rispetto a questo. Quelle imprese che ho citato, i Ferreri, Del Vecchi, Benetton, la Brembo di Bombassei, se non ci fossero i tessuti produttivi delle piattaforme dove loro insistono, non avrebbero la capacità competitiva che loro hanno. Questi sono, per essere chiari, i nostri campioni nazionali, che valgono da questo punto di vista quanto la Volkswagen, quanto la Mercedes. Ovviamente sembra ridicolo. No, è chiaro. Guarda, ma non è così. Io, Aldo, l'ho interrotta perché, siccome il ragionamento lo condivido dalla prima all'ultima parola, il ragionamento, alcuni ascoltatori dicevano, guardate, il ragionamento ha l'integrale sua complessità, arriva a spiegare la ragione per la quale chi vi propone o chi pratica una specie di, non eugenetica, ma di morte violenta di massa, di capitalismo molecolare, perché questo è il fenomeno al quale noi assistiamo in questo anno. E qui la frattura profonda rispetto agli anni di crisi, perché tra Stato esoso, banche che non possono più sostenere e cattivi pagatori, questi tre fenomeni sono le tre pinze elettriche di un elettroshock che fa moria di massa, di quel capitalismo molecolare. Questa frattura è la frattura di una delle condizioni vere dello sviluppo italiano. Chi vi propone o pensa che qui ci sia una giusta moria per fare innalzamento darwiniano e schumpeteriano di produttività, secondo me confonde la lettura di testi e maestri con una cattiva interpretazione di ciò che ha caratterizzato il tipo di mercato e di attori del mercato italiano. Io in questo la penso esattamente come Bonomi, ed è questo l'allarme che viene sottovalutato, rispetto al quale tante iniziative ci sono. Oggi, lo ricordo a tutti, l'ho già detto, alle 10.30 Reggio Emilia, Piazza Martiri, 7 luglio, c'è il sit-in di CNA sui temi di cui stiamo parlando. Nelle Marche oggi c'è il manifesto degli industriali delle Marche, di tutte quelle di Confindustria, che viene diramato con proposte, tra gli altri, di 5 punti percentuali sul cuneo fiscale in meno. Mi preme solo dire che la parte di compensazione dei crediti IVA, che da anni lo Stato non paga alle imprese contribuenti, e la parte dei pagamenti dei 100 miliardi di debito commerciale alle imprese, questa parte si può fare attingendo a Cassa Depositi e Prestiti, non è deficit e non è debito pubblico aggiuntivo. Stiamo rimbalzando anche qui sul tavolo del governo. Il governo si sdegna, ma lo strumento c'è, è uno strumento non da deficit, ed è impensabile che non ci si metta mano di fronte a quello che succede nell'economia italiana. Adesso andiamo in pubblicità e subito dopo torniamo, sempre nelle Marche, con un occhio e ce lo spiegherà Andrea Pesaresi, che è il presidente di Confapi, ancora ha un'iniziativa di questo tipo che sul territorio nasce per dare ascolto e non solo protestare, a Osimo, nelle Marche, subito dopo la pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qui tornati in studio, un flash su una lettera di un artigiano che ha problemi e spiega come la sua posizione sia peggiorata. È Denis, che ci scrive, ci prega di non fare il cognome, e il suo problema è sul redditometro. Ha 45 anni, artigiano fotografo dal 97, prima del 97 lavorava in laboratorio fotografico professionale, che è entrato in crisi nel 97 e così si è trovato senza lavoro. Allora si è messo in proprio facendo foto industriali, pubblicitarie per le aziende qui nel nord-est, in più ha uno studio fotografico suo in un paesino di 2000 abitanti. Il lavoro verso le aziende purtroppo negli ultimi 3 anni è quasi scomparso per via della crisi, ma anche del cambiamento di tecnologia. Si è dato da fare però con riprese fotografiche da sole, continuando a lavorare sia pure non per progetti coordinati per le imprese, oltre che nella normale attività del suo studio fotografico. Dopodiché nel 2004 non era congruo, è coerente, l'agenzia delle entrate convoca Denis e nella seconda convocazione gli chiedono di andare senza il commercialista, gli chiedono 10.000 euro da pagare, però pagandolo subito senza opposizione. La frase, dice Denis, è questa: non abbiamo riscontrato incongruità, ma comunque lei è uscito dai parametri degli studi di settore, quindi abbiamo parlato con i nostri vertici, abbiamo stabilito che se lei ci dà 1.500 euro chiudiamo la questione, altrimenti le verrà fatto un maggior controllo fiscale e patrimoniale, eccetera eccetera. Naturalmente lui paga. A quel punto lui aveva 2 automobili e una motocicletta, ci dà tutti gli riscontri. Nel 2007-2008 ha un calo di lavoro ulteriore dovuto alla chiusura completa della richiesta dell'impresa dello studio fotografico, e a questo punto l'agenzia delle entrate si rifà viva, perché gli contesta che avendo 2 automobili e una motocicletta, in base al redditometro doveva pagare tasse più elevate perché il reddito era più elevato di quello che lui aveva dichiarato, e quindi gli chiedono 26.000 euro per il 2007 e 28.000 euro per il 2008. Lui ancora non ha contrattato la tariffa da pagare, in questo momento però non ha più lavoro, nello studio non riesce ad andare avanti, dice: sono terrorizzato a parlarne per le reazioni intorno a me, io in ogni caso non sono in grado di sostenere tutto questo, quindi l'intera mia parabola professionale si andrà a schiantare. Voi direte: leggerezze di Denis o sono irrigidità incomprensibili però di un ordinamento fiscale incapace di valutare le posizioni di ciascuno e la capacità contributiva di ciascuno, è l'articolo 23 della Costituzione che è violato? Vi siete mai resi conto di quanto a chiacchiere l'articolo 53 sulla progressività funziona esattamente all'opposto per le imprese, per cui le piccole imprese pagano 30 punti, 40 punti in più di quelle grandi e delle banche? È costituzionale tutto questo? Io ritengo di no. Non è più coerente un sistema di liberale, il Familien Existenz Minimum, che c'è in Germania, proprio perché delle famiglie, delle associazioni di famiglie e di impresa riuscirono a ottenere che la Corte Costituzionale obbligasse il Parlamento ogni anno a stabilire un tetto di reddito personale, familiare e d'impresa che è intangibile a qualunque pretesa dell'ordinamento. Non è mettendo dei limiti quantitativi fissi alle pretese dell'ordinamento fiscale e quindi alla spesa pubblica che davvero si può ottenere uno Stato capace di spendere al meglio, al più basso livello, per contenere così la pressione e far crescere meglio. Perché non si indigna su questo Monti e si indigna perché qualcuno gli chiede invece di tagliare spesa, invece che aumentare le tasse? Perché dice che al posto dell'IMU allora lui mette la patrimoniale sui redditi, quando invece il problema è quello di diminuire la spesa per lasciare spazio a una minore pressione fiscale, visto che in termini comparati tutti ce l'hanno più bassa di noi? Perché si indigna Monti? La colpa è dei partiti dei decenni prima, certo, ma il problema è che lui a questo punto deve rispondere. Se si indigna e dice solo più tasse, tanto vale tenersi signori dei partiti, non hanno studiato, sono somari, mentono, c'è il piccolo problema che almeno si presentano alle elezioni, c'è questo piccolo ma non secondario particolare. Allora è con noi l'animatore di un'iniziativa che è partita in questi giorni a Osimo, è nato a Osimo il CIC, il Comitato Nazionale a Difesa degli Imprenditori nel rapporto tra imprese e banche, eccoci qua, è con noi Andrea Pesaresi. Allora, obiettivi di questa iniziativa e contenuti concreti di quello che potete fare a Osimo. Buongiorno. Sì, è nato il CIC perché avevamo oramai da tanto tempo capito che insomma il rapporto tra banca e impresa era diventato una situazione insopportabile per gli imprenditori. Sappiamo benissimo che non ci sono risorse finanziarie per poter sostenere tutto il mondo imprenditoriale, ci sono delle imprese decotte, ci sono delle imprese invece che hanno un futuro. paradossalmente quelle che possono avere un maggior futuro sono proprio quelle che hanno investito in questi ultimi anni in innovazione, in processi innovativi, in propri brand, eccetera, eccetera. E queste sono incappate nel culmine della crisi avendo fatto grossi investimenti e si trovano in grosse crisi di liquidità. Le banche stanno facendo di tutta un'erba un fascio, come si suol dire, insomma. Non riescono in questo momento a distinguere quelle che avranno un futuro da quelle che non lo avranno, e quelle che sono meno in difficoltà sono quelle che non hanno investito nulla, che forse se una ripresa, come noi tutti ci auguriamo ci sarà, saranno quelle che non avranno, non saranno al passo con i tempi, mentre le altre si troveranno sicuramente molto più avvantaggiate. Ora, tutti i giorni noi ci vediamo chiamare dai direttori di banca per sconfinamenti insignificanti. C'è una legge dello Stato che è stata, un decreto legge che è stato emanato il giorno 29 di febbraio proprio sugli sconfinamenti bancari, dove li blocca per 270 giorni se sono stati causa di insolvenze da parte dei clienti, e le banche continuano a chiamare, per cui noi abbiamo detto basta, cioè se non vengono neanche rispettate leggi che sono state firmate dall'ABI, cioè dei decreti legge che sono stati quindi controfirmati anche in quel tavolo dall'Associazione Bancaria Internazionale, noi dobbiamo fare assolutamente qualcosa. Ci sono imprenditori in preda alla disperazione ed è nato questo CIC, un comitato di imprese nei rapporti con il credito. Noi stiamo tentando con tutti i modi di contattare quante più persone possibile, perché dobbiamo fare una massa critica, se siamo in pochi ovviamente diventa tutto molto più difficile. Meno di una settimana siamo già qualche centinaio, e ci sono state anche delle festività come il 25 aprile, il 1 maggio, una domenica, che sicuramente non ha facilitato il contattare gli imprenditori, però siamo già qualche centinaio l'obiettivo è quello di portare le banche a trattare secondo, innanzitutto a rispettare l'imprenditore, perché quando si va in banca ci si va con uno spirito di sudditanza, rispettarlo, perché le cose si possono ottenere e non ottenere, ma se non si ottengono intanto bisogna interagire tra persone e non avere il direttore di banca che ti guarda da molto in alto e ti dice tu non sei più meritevole di credito. Questo non può più avvenire. Allora io la devo fermare, che stiamo andando in informazione sulla circolazione stradale. Grazie ad Andrea Pesaresi e a chi lo accompagna in questa iniziativa, Marco Cucculelli insieme all'avvocato Arnaldo Ippoliti. Chi ci ascolta Osimo e intorno, in quella parte di Marche, faccia riferimento e sappia che c'è questo comitato che è nato per il sostegno nel rapporto con le banche. Anche strade. 9 in punto, la versione di Oscar. E mentre tornano i Doors in questo 1 maggio sul lavoro che non c'è, perché lo Stato frega anche te, scusatemi, e perché Monti si indigna, ma non fa altro che chiamare un altro tecnico esterno che non sa niente di bilancio pubblico, anche se una persona integerrima come Enrico Bondi si fa scudo del suo essere galantuomo, si fa scudo, è stato il figlio che lavorava con lui in Parmalat a creare il collegamento, si fa scudo di Enrico Bondi, che io difenderò sempre, lavorerei gratis per Enrico Bondi, ma che ha 31 anni dalla prima commissione sulla spending review, vi ho letto la legge del 1981, affidata a Piero Giarda. Piero Giarda ci proponga uno zar esterno e coinvolga Giavazzi, che non ha i numeri da fuori, non ha i numeri tecnicamente, non ha l'accesso al bilancio, non fa parte del governo Francesco Giavazzi, capito? E che convochino Giavazzi e Amato, si sdegnino perché qualcuno chiede, in tanti chiediamo, che si facciano tagli di spesa per abbattere le tasse, e ci dicono che se ci levano l'IMU ci mettono la patrimoniale sulla ricchezza. Beh, così parlano degli inveterati vecchi leader consumati di partito, non dei professori tecnici alla cui competenza era giusto, dopo gli sperperi indegni di decenni di partiti spreconi, sperare che ci fosse gente che desse delle risposte immediate. Lo sdegno non è proporzionale alla responsabilità, perché l'Italia è in ginocchio non per colpa del governo tecnico e di Mario Monti, però l'arrabbiatura è per la distanza siderale da questi toni di incomprensibile egotismo stizzoso del Presidente del Consiglio di fronte a imprese che muoiono, lavoro che non c'è, esodati disperati. Ecco, questa è la realtà alla quale bisogna saper parlare un linguaggio concreto di interventi possibili, come in tanti altri paesi che erano in ginocchio, con i tagli di spesa pubblica, non di servizi ai cittadini, perché i servizi di welfare sono il 24% della spesa pubblica, mentre la spesa pubblica è il 52%. Non è vero che per tagliare un po' di robetta bisogna scomodare gente che non sa niente del bilancio pubblico, perché vuol dire che non lo si vuole fare. Ma non è questo il problema di cui ci occupiamo qua oggi. Il nostro tentativo è quello di dare ascolto e di capire come si possono creare reti, perché chi è disperato e chi vuole uccidersi perché ha perso l'onore, perché non sa come dirlo ai familiari, perché non sa come pagare le tasse eccetera, possa non farlo. Tra le tantissime lettere che abbiamo ricevuto nei giorni scorsi ce n'ha colpito una di Patrizia Deitinger, psicologa del lavoro, perché sul fatto che la continuità e come si vive nell'impresa abbia un impatto incredibile, fortissimo, e sia una componente essenziale della psicologia umana, ci ha scritto una lettera molto bella. Allora abbiamo chiesto di scocciarla oggi, che è il 1° maggio, ed è a telefono con noi. E a Patrizia Deitinger, oltre a ringraziarla per essere qui con noi per qualche minuto, le chiedo, nella sua esperienza, che so essere un'esperienza lunga, perché nella sua lettera ci ha descritto quanto tempo ha lavorato e in quale organi come psicologa del lavoro, quello che sta avvenendo oggi, che tipo di attenzione, ascolto e risposte può ottenere secondo lei? Che cosa concretamente si può fare, Patrizia? Buongiorno dottor Giannino, buongiorno a tutti gli ascoltatori, buon 1° maggio nonostante tutto. L'ascolto dovrebbe essere di gran lunga maggiore di quello che effettivamente è, perché un aspetto che forse non è tenuto sufficientemente in considerazione è che il lavoro è una parte fondamentale dell'identità di tutti, sia imprenditori che lavoratori dipendenti. Il legame che le persone hanno con il proprio lavoro è fortissimo, fa parte del sé. Chiaramente per un imprenditore è evidente, un imprenditore che ha l'azienda di famiglia metaforicamente nel suo DNA, il non riuscire a portarla avanti e trasmettere ai propri figli è evidente quanto sia grave la ferita che provoca, ma un lavoratore dipendente, soprattutto in quelle aziende ben gestite, in cui c'è una corretta gestione delle risorse umane, il lavoro, carichi di lavoro e benefits distribuiti in modo equo, è chiaro che il lavoratore è molto legato alla propria azienda. Non è raro sentire di lavoratori che hanno perso il lavoro, che hanno tenuto nascosto alla famiglia per vergogna questo fatto, hanno continuato a uscire la mattina per settimane o mesi perché si vergognavano di dire che lo avevano perso. Perdere il lavoro è un attacco fortissimo al sé, all'identità. C'è un video che gira su internet intitolato Non siamo scarti, che è stato prodotto da un gruppo di lavoratori maturi, proprio che si è trovato a perdere il lavoro in età avanzata, che ha deciso di esporsi, di superare quel senso di vergogna per presentare le proprie situazioni. Dottoressa, io la interrompo solo per dire che io sarò un po' come sempre un estremista eterodosso, però io penso che le fenomenologie che ci ha appena descritto, di vera e propria patologia a cui si può arrivare per perdita di identità connessa al lavoro del lavoratore dipendente, che arrivano appunto a uscire di casa, non dire eccetera, per moltissimi versi, senza voler accomunare, è quella del piccolo imprenditore che non dice alla moglie, ai soci e ai dipendenti che non è più in grado di fare, accumula tutti i guai fino a che poi esplode e si suicida. Non voglio paragonare, però è un dramma per certi versi analoghi. Assolutamente, perché l'attacco all'identità è assolutamente identico in tutti e due i casi, assolutamente. Ma pensiamo, quando noi ci presentiamo o veniamo presentati a una persona che non conosciamo, noi diciamo nome e cognome e un istante dopo il discorso scivola su di che cosa ti occupi, certo, dove lavori, che cosa fai. Aspetti un secondo, sentiamo Rossella da Milano che ha una testimonianza. Rossella, prego. Sì, buongiorno Giannino, io prima di tutto la ringrazio di esserci. No, ma si figuri, vada quello che deve dire, non mi ringrazi, prego. Perché no, effettivamente dà voce a tutti e soprattutto in questo momento dice le cose giuste al momento giusto. Io dico che questi non sono dei tecnici, non lo sono affatto, proprio nel modo, e questo lei l'ha già detto. Non sono dei tecnici, anche nell'articolo 18 probabilmente la Fornero avrà bisogno di un altro consulente perché non ne sta venendo fuori. Io ho la sensazione che, anche questo lei l'ha detto, che Monti va a prendersi le medaglie in giro per il mondo, ma non risolve i nostri problemi effettivi. E inoltre ho anche questa sensazione che no, non lo farà perché è uno che ci tiene, soprattutto non è, ma darà forfè a un certo momento perché non sta risolvendo assolutamente nulla e stiamo andando proprio come una Grecia. Stop Rossella, perché sennò poi dicono che qua ci organizziamo per tifare contro il governo. Non è questo, ma nel merito siamo un po' delusi. Patrizia, secondo lei immaginare che l'organizzazione attuale attraverso le ASL, i sistemi pubblici eccetera eccetera possa riservare attenzioni e competenze sulla cosa di cui ci sta parlando è impensabile o no? No, sarebbe pensabilissimo. Il problema è che, per quanto mi risulta, le ASL sono già sovraccariche in tempi normali, perché purtroppo il personale è poco, le assunzioni non sono fatte da anni, affrontare situazioni di questa serietà bisogna essere solidi, cioè professionisti solidi con esperienza alle spalle, perché immagini un imprenditore disperato che ha già per anni ha bussato alle varie porte. No, che tipo di carico può dare a strutture che naturalmente Radio non sono 24. Adeguate? Grazie Patrizia. La passione si sente.